542. Pollo in porchetta. Non è un piatto signorile, ma da famiglia. Riempite un pollo qualunque con fettine di prosciutto grasso e magro, larghe poco più di un dito. Aggiungete 3 spicchi d'aglio interi, 2 ciocchettine di finocchio e qualche chicco di pepe. Conditelo all'esterno con sale e pepe e cuocetelo in cazzaruola con solo burro e fra 2 fuochi. Al tempo delle salsicce potete sostituire queste al prosciutto, introducendole spaccate per il lungo. 543. Arrosto morto di pollo alla bolognese. Mettetelo al fuoco con olio, burro, una fetta di prosciutto grasso e magro tritato fine, qualche pezzetto d'aglio e una ciocchettina di ramerino. Quando sarà arrosolato, aggiungete pomodori a pezzi netti dai semi oppure conserva sciolta nell'acqua. Cotto che sia, levatelo e in quell'intinto cuocete patate a tocchetti, indi rimettetela al fuoco per riscaldarlo.